priorità assoluta è la conclusione dei campionati, esigenza per definire gli organici, ma soprattutto evitare un'estate piena di contenziosi legali. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Fino al 13 aprile sospendiamo anche le sedute di allenamento onde evitare che delle società sportive possano pretendere l'esecuzione tra virgolette della prestazione sportiva anche semplicemente nella forma di un allenamento. Ovviamente gli atleti non significa che non dovranno più allenarsi, lo faranno in forma individuale. Consentiteci anche un pizzico di ottimismo, di speranza. Partendo dal 20 di maggio, in ultima analisi, come la stessa UEFA comincia a individuare come data presunta i primi di giugno, sforando la famosa deadline di giugno, potremmo a luglio definire i nostri campionati. Lo scudetto è un fatto di assegnazione o di non assegnazione, quindi non di annullamento del campionato. Si tratta solo di decidere se assegnarlo o meno. La stessa Juventus, mi sembra che Agnelli abbia espresso in questo un chiaro intento, voglio dire, in termini di non gradimento di una scelta che non lo vuole. Non ha alcun senso portare avanti questa stagione con buona pace del Benevento, del Liverpool, della Juventus, ma mi pare più della Lazio e di compagnia cantante. Nessuno poteva prevedere un virus del genere e questo non vuole dire che chi era messo in buone condizioni sia in qualche modo autorizzato a pretendere qualcosa. Questa stagione non si è da concludere. Nell'ordine avete sentito in questa introduzione Presidente del Consiglio Conte, Presidente della Federcalcio Gravina e un nostro ascoltatore. Sempre invitati 349-238-6666, WhatsApp vocali, numero verde 800-24-0024. Ma con buona pace dell'ascoltatore mi sembra si vada in un'altra direzione. Avete sentito anche ora nel giornale radio che Spadafora ha detto è allo studio in sede governativa un'idea di riprendere l'attività sportiva a maggio come ieri anticipato dall'UEFA. Ciao Pierluigi Pardo. Ti sentirò. Alessandro Acciato, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Ale, grazie. Ti ho sentito ovviamente raccontare a Sky minuto per minuto i respiri dell'UEFA. Opportuno richiamo all'ordine, mi sembra sia stato quello dell'UEFA di ieri. Una cosa del genere con un messaggio chiaro: si torna a giocare e si gioca in estate. Ovviamente la premessa è sempre quella, potremmo non farla, rifacciamola per non passare la parte del torto se le condizioni sanitarie lo permetteranno, ma questa è la premessa sempre, cioè bisogna capire come sarà l'evoluzione del coronavirus. Però se lo permetteranno deve giocare, ha detto la UEFA, si giocherà, ha detto la UEFA, e si giocherà anche ad agosto, ha detto sempre la UEFA all'interno di quella riunione di ieri con le 55 federazioni, tra cui ovviamente la Federcalcio. Mi sembra una soluzione grosso modo di buon senso, cioè appena possibile si torna a lavorare come in ogni altro settore produttivo. Non so se per Luigi Pardo adesso mi sente. Sì, ma vorrei dire qualcosa di esotico su problemi di... invece no, avevo spinto il tasto muto, quindi è tutto molto più banale di quello che poteva sembrare. Sì, è assolutamente di buon senso. Questo è come domenica andiamo al mare, amore. Poi magari domenica c'è il temporale, piove e non ci si va, però l'ottimismo della volontà e la voglia di vivere, la voglia di pianificare, anche eventualmente di rischiare di perdere del tempo in riunioni, incontri, speranze, se poi le cose non dovessero essere possibili, va messa sul piatto. Io trovo tutto molto di buon senso. Al di là del romanticismo, voglia di non perdere troppi soldi e la voglia di non ricevere troppe cause. Diciamo che c'è il romanticismo, ma anche un aspetto troppo e molto pratico. Sì, certo. È giusto. Io sono di Roma Nord, quindi sono romantico. L'amico alciato è biellese. E alla sud, quindi meno romantico. Quindi, romantico. Quindi Pier, mi tengo l'invito al mare per domenica, giusto? Ma certo, dobbiamo avere voglia di ripartire. Dobbiamo avere voglia di ripartire, però l'elemento vero, fondamentale, che credo questa vicenda in generale ci sta dimostrando, è che in questo momento c'è una priorità, una superiorità della scienza sulla volontà degli individui. Quindi in questo momento noi non ci possiamo permettere di fare delle cose che non siano sicure. No, ma io credo che ragionevolmente che vada in quella direzione lì. Poi se c'è qualcuno che non vuole riprendere il campionato perché ha paura di andare in B o perché non vuole, questo è un altro discorso. Quello che dico è che in questo momento tutti devono avere, secondo me, dentro di loro la cosa di dire vogliamo ripartire se ci saranno le condizioni. Poi se arriveranno Burioni, Ilaria Capua, i governi internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il governo, non si può, non si farà, non si può andare, non si gioca. No, però l'importante è, insomma, adesso vengono portate avanti delle posizioni sulla base di grosso modo di interessi di partito. Tra l'altro, tra poco sentiremo il presidente del Lecce Sticchi Damiani, che ha una posizione diversa rispetto a quella degli altri club, come quello del Brescia, Concellino, che ha detto: no, noi non giochiamo, non faccio giocare la squadra, si fa riprendere, che mi sembra abbastanza forzato. D'altra parte mi sembra, Ale, che si sia adottato un approccio americano. Tante volte abbiamo citato così gli scenari un po' da Blade Runner dell'NBA, però quando e ovunque sia possibile si giocherà, bisogna finire il lavoro. Questo è il senso dell'UEFA, che riporta la voce di federazioni, di leghe che sono grosso modo compatte tutte salvo quella italiana. Così? Sì, all'interno della Lega Italiana c'è un po' di maretta, no? Poi ce lo spiegherà meglio il presidente Sticchi Damiani, nel senso che non c'è una compattezza, un'unità di intenti, ma ognuno tende in questo momento, salvo qualche eccezione, ad andare per la propria strada e a pensare soprattutto al proprio bene, al bene del proprio club, senza avere una visione un po' più lontana, un po' più lunga e un po' più... più, diciamo, no, intelligente non posso dirlo, una visione diversa, ecco, diciamo così. La UEFA però sì, da questo punto di vista è stata chiara, addirittura ha già previsto, come insomma si raccontava ieri, ci sono due scenari, uno più ottimistico ma che è un po' più lontano dalla realtà, quello di iniziare i primi giorni di giugno i campionati, dopo 15 giorni le coppe, poi farle andare avanti in parallelo, finire i campionati a luglio e le coppe i primi di agosto. Poi c'è una ipotesi un po' più affine alla realtà che prevede di giocare prima i campionati iniziandoli a fine giugno e poi le coppe in tutto il mese di agosto. Detto questo, in questa seconda ipotesi è già anche previsto l'accavallamento di due stagioni per quanto riguarda le coppe, cioè da una parte ad agosto si finirà l'attuale Europa League e l'attuale Champions League, ma nello stesso mese inizieranno le partite di qualificazione delle coppe della stagione successiva. Questo si può fare perché non c'è sovrapposizione di squadre, cioè alcune squadre giocano la coppa di oggi e non sono le stesse che si devono qualificare alla quelle della stagione successiva. Quindi gli scenari li ha tutti ben presente la UEFA. L'unica domanda a cui non può rispondere nessuno è: il coronavirus permetterà di questo non ha nessuna risposta. Fa giustamente il suo lavoro, cioè i presidenti, adesso al di là di tutto, certe forzature, penso alla Lazio, tanto per fare un nome, le ho trovate eccessive, o anche il Napoli che sembrava volersi allenare, poi ha cambiato idea già il 25 marzo, poi ovviamente tutto chiarito, ci mancherebbe altro. Sì, però anche quella del Brescia sul fronte opposto è una forzatura. Ecco, però voglio dire, anche escludere al 100% di ricominciare a giocare, secondo me è un discorso sbagliato. La verità è che c'è una superiorità della scienza, appunto, e quindi bisogna rimettersi a quello che diranno loro. Ieri nella conferenza stampa di Conte a un certo punto un giornalista gli ha fatto una domanda sul rapporto che esiste in questo momento tra politica e scienza. È chiaro che è un rapporto di profonda interdipendenza, anzi forse se avessimo ascoltato certi scienziati prima oggi avremmo qualche vittima in meno. No, ma guarda, forse, sai, non dico che avremmo ricominciato a vivere, ma ti quasi. Ricordi l'altro giorno l'ha detto chiaramente Malagò, il presidente del CONI, in questo momento, appunto, non è che comanda i governi, in questo momento è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, che decidono le cose. Cellino ha perfettamente, ma proprio al 100% la legittimità di pretendere che ci sia la totale sicurezza. Questo è indiscutibile. Questo è indiscutibile, è sacrosanto, e sono con lui fino a mi getto nel fuoco con lui, se questo è il tema. Se il tema è quello di dire no, basta, è finita, a prescindere, no. Cioè, sì. Vediamo che cosa succede. Ipotizziamo un piano, esattamente come si era ipotizzato un piano in quei giorni di inizio marzo, quando era stato fatto tutto un calendario fino alla fine della stagione, che poi purtroppo il coronavirus ha travolto. Certo. Qui ci auguriamo che ci sia la possibilità di realizzare questa cosa, anche se nel calendario alciato non vedo lo slot Ponza. Questa è una battuta. Rinunciamo alle vacanze, ci mancherebbe. Ma sai, lo faranno anche i calciatori. Se si accavallano poi le stagioni, si tratterà di riprogrammare anche con creatività tutto quanto. Perché alla fine, come vale per noi, vale per tutti quelli che lavorano, quando sarà possibile tornare a lavorare, credo valga anche per il mondo calcio. Ecco il presidente che ringrazio, Saverio Sticchi Damiani. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Io l'ho convocato con due rappresentanti delle TV, come Pardo e Alessandro Alciato. Prima le faccio spiegare qual è la sua linea, che mi sembra sia un po' diversa, leggendo anche quanto ho visto oggi sul Corriere dello Sport, rispetto a quella, ad esempio, del suo collega del Brescia. Sì, grazie. No, la mia linea credo che sia una linea di grande prudenza e ma al contempo di responsabilità. Cioè, ho ribadito più volte che i paletti per incominciare a giocare devono essere condizioni di assoluta sicurezza e quindi inevitabilmente superamento definitivo di questa grave crisi che sta vivendo il paese e il mondo, e soprattutto possibilità di, appunto, di riprendere in assoluta sicurezza. Non mi appassiona molto in questo momento il tentativo di indovinare la data di quando ciò possa accadere, uh-huh, perché non è un tema, uh-huh, su cui secondo me i presidenti di calcio si devono avventurare non avendo le competenze, mentre forse i presidenti devono decidere qual è il termine ultimo entro il quale poter finire un'eventuale ripresa dei campionati senza andare a condizionare la stagione prossima, che poi è una stagione che deve finire presto perché ci saranno, appunto, certo, gli europei ed olimpiadi. Quindi forse bisogna prevedere un termine ultimo e vedere se quando si potrà riprendere a giocare è un termine ultimo che si può rispettare. Questo è giusto che il calcio lo faccia. Certo, parole di totale buonsenso, presidente, ma lei il termine ultimo lo vede nel 30 giugno, quindi praticamente impossibile riprendere, o sulle linee dell'UEFA più in là nel tempo? Secondo me si può, in questa situazione così particolare, anche sfruttare la finestra di scudo, una parte di luglio, anche perché sia chiaro, qui non è che ci sia in questo momento da parte di nessuno la voglia di riprendere a giocare, perché anche mentalmente non è una cosa che può sembrare è fuori luogo, però nel momento in cui il paese dovesse ripartire e vari comparti dovessero ripartire, non è che il calcio si può tirare indietro, perché certo, è vero che parliamo di un gioco, ma parliamo anche di un'industria che deve andare avanti, che crea un indotto in tutto il paese, non ultimo l'indotto fiscale contributivo che il calcio versa allo Stato, per dirne una, per esempio. Sì, sposo parola per parola e le faccio i complimenti per questa lettura, che è quella che abbiamo anche noi. La lascio ad Alessandro Alciato, per dovere di ospitalità, per una prima domanda. Certo, buongiorno, sì, presidente. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io questi giorni per Sky mi sono occupato molto di, chiamiamola così, politica sportiva, tenendo quindi contatti con le leghe europee, con la UEFA, con la FIFA. Ti ho seguito. Ah, benissimo. E mi è apparsa molto chiara, forse anche troppo chiara, una cosa, cioè che mentre all'estero, ne parlavamo prima con Carlo in studio, le leghe più o meno remano dalla stessa parte, il calcio italiano sembra spaccato al proprio interno. Allora le chiedo, A, come si è arrivati a questa situazione, e se B, questo non sia in realtà il momento in cui mettere da parte i personalismi, mettere da parte gli egoismi e remare finalmente nella stessa direzione, perché poi davvero all'orizzonte c'è il rischio del baratro se alla fine non si pensa tutti allo stesso modo. Io sono assolutamente d'accordo, condivido tutto. Io, diciamo, rapidamente, per fortuna, ho conosciuto in 3 anni tutte e 3 le leghe, quella della C, quella della B e quella della A, e vi dico che questo tipo di assemblea funziona nel momento in cui si pensa all'interesse collettivo del sistema, nel momento in cui partono ragionamenti legati al porticello, alla situazione di classifica del momento, ancor di più di fronte a una situazione di totale emergenza come questa, diventano dei consessi inutili dove si litiga e basta. Io in questo momento leggo in giro che se si cristallizzasse il campionato, si dovesse fermare tutto, per esempio, ho letto ieri il presidente Gravina ha detto che ci sarebbero 2 promozioni dalla Serie B, dalle prime 2 squadre che hanno diritto, e quindi conseguenzialmente 2 retrocessioni, quindi il Lecce e il Genoa per esempio sarebbero salvi, ma non è che io mi metto oggi a dire fermiamo il campionato, io devo dire se ci sono le condizioni di sicurezza occorre riprendere, perché serve al paese, serve al sistema calcio, sapendo perfettamente che se si riprende a giocare uno dei principali candidati alla retrocessione sul campo sono io. sì, no, ma, cioè, no, questo era chiaro. Guarda, Presidente mi ha anticipato, nel senso che è chiaro che con questo tipo di status quo, se la stagione finisse oggi, le squadre che sono in Serie A sono sicure di rimanerci, quindi è una posizione estremamente nobile questa, perché è una posizione oggettivamente che va nell'interesse complessivo. Ecco, io credo, lo diceva Maragol l'altro giorno, che al netto di tutta la sofferenza, dell'inquietudine che viviamo in queste ore da 1000 punti di vista, con queste centinaia di morti che ogni giorno vengono annunciati in questo rito drammatico delle ore 18, però dal punto di vista della società, dell'economia e non solo dell'economia, dei valori, questa sia una grande occasione per ripensare tutto. Ecco, io volevo chiedere al Presidente se è d'accordo con me, cioè è un'opportunità, chiaramente è una crisi, ma deve diventare anche un'occasione per poter ragionare su un calcio diverso e magari anche per poter provare, se dovessimo cogliere come filiera, come sistema, in maniera opportuna questo momento, di avvicinare i campionati che sono stati iconici, che sono stati davanti a noi in questi anni, come diceva Maragol l'altro giorno. Sono assolutamente d'accordo. Io spero che da questo dramma che stiamo vivendo si possa uscire con qualche termine di paragone più equilibrato, no? Quante volte abbiamo anche nel calcio, ma questo può essere nella vita in generale, perso tempo a spesso delle cose che oggi sembrano delle sciocchezze, invece rispetto al calcio quanti eccessi forse abbiamo visto da un punto di vista dei numeri, delle risorse impiegate, anche eccessi nei comportamenti in alcuni casi che oggi magari sono fuori luogo e che si può pensare che possano continuare a essere fuori luogo anche una volta superata questa fase. Forse si può tornare un po' a un maggiore equilibrio in tutto, sinceramente, perché tra l'altro i club nel ripartire ora dovranno fare degli sforzi durissimi, e questi sforzi possono essere un buon modo di diventare forse una regola per il futuro, basta eccessi e basta esagerazioni. Presidente, glielo chiedo io, non sfrugugliando Sky e DAZN, quali sono i rapporti con le televisioni in questo momento, allo stato dell'arte in questo momento? Allo stato dell'arte c'è un tavolo in Lega che affronta proprio questo tema. È chiaro che i rapporti con le televisioni, mi sento di poter dire che assomigliano molto al tema dei rapporti con i calciatori, ora tutti si chiedono che cosa accade con i contratti. Alla fine sono 2 questioni collegate, perché la principale fonte di ricavo per una società sono le televisioni e il principale costo di una società di calcio sono gli stipendi dei calciatori. Impattano l'uno e l'altro più o meno allo stesso modo in percentuale media. Le televisioni rappresentano circa l'80, il 70-80% dei ricavi, e i calciatori il 70-80% dei costi, quindi 2 temi vanno affrontati insieme. Se nel caso in cui il campionato non dovesse più continuare e venir meno una fonte di ricavo certificata per tutti i club, lì inevitabilmente poi bisogna andare con i calciatori per ridurre praticamente quel costo, e viceversa se si dovesse continuare a giocare. Sì, è tutto perfetto come l'avevo immaginato da un osservatorio esterno. Con i calciatori Alessandro, come va? Con i calciatori noi non abbiamo voluto allo stato iniziare un ragionamento, perché questa corsa in avanti, salvo che non ci siano, diciamo, delle esigenze tra virgolette di bilancio immediate, ma questa corsa in avanti per quanto mi riguarda non ha molto senso se non si hanno gli scenari, le prospettive. Cioè io nel momento in cui il campionato non dovesse più concludersi mi dovrei sedere al tavolo con i calciatori sapendo che la loro prestazione è diventata impossibile dal primo di marzo e che teoricamente da codice civile non bisognerebbe rendere un corrispettivo. Con queste premesse ci siederemmo per una soluzione di buonsenso, sempre ovviamente, però è uno scenario. Se lo scenario invece è che si è stati fermi un paio di mesi e si fa lo sforzo di continuare a luglio, ci si siede con tutt'altro scenario e con tutt'altri numeri. Quindi oggi la fuga in avanti è una fuga che chi l'ha fatta però lasciandosi aperta la possibilità di intervenire nel caso in cui non si dovesse giocare più o si dovesse giocare, quindi a questo punto è meglio aspettare. Sì, Alessandro, prego. Sì, io insomma volevo chiedere se lei ha una ricetta in questo momento, o se dice delle cose in particolare sui giocatori. Adesso si parlava della possibilità di stipendio, no? Le ha detto e ha raccontato la sua posizione. Cioè, com'è il rapporto con i calciatori in questo momento? Molto semplicemente, cosa le chiedono, cosa le dicono, cosa vorrebbero dalla società, cosa chiedono alla società e la società cosa chiede a loro in un momento in cui gioco forza devono rimanere fermi? Innanzitutto devo dire, qui è un ambiente, abbiamo cercato sempre di costruire un ambiente familiare, certo, sempre, diciamo, caratterizzato da un'organizzazione aziendale, da professionalità, però i rapporti sono come se fossero familiari, quindi c'è anche la quotidianità che in questo momento sicuramente manca. E tra l'altro i calciatori sono perfettamente consapevoli in questo momento di essere fortunati, più fortunati di altri colleghi, perché vivono in un'area geografica meno colpita, e quindi chiaramente si rendono conto di questa fortuna e vedo che esprimono grande solidarietà verso i colleghi che in questo momento sono più sotto pressione. Noi cerchiamo di stargli vicino, soprattutto perché ci sono alcuni che sono rimasti qui da soli, non sono stati raggiunti dalle famiglie, quindi anche giovani, diciamo, e quindi soprattutto chi è solo, chi non ha il supporto della famiglia, che non ha la quotidianità dell'allenamento, cerchiamo di dargli un supporto anche morale e psicologico. Per il resto stanno tutti a casa in attesa di indicazioni. Le faccio fare una domanda da un ascoltatore che è Paolo, provincia di Perugia. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Innanzitutto apprezzo le incursioni in campo sociologico filosofico del signor Pardo. Detto questo, io sono per la sospensione del campionato per motivo la mia affermazione in base alle seguenti. Che senso avrebbe? Io capisco gli interessi economici del calcio e ai quali voi siete molto affezionati, parlando della Radio Confindustria, ma io mi domando che senso ha aprire un campionato a tre mesi di distanza quando le preparazioni atletiche delle squadre sono completamente differenti rispetto al punto di partenza? Che senso ha aprire un campionato con gli stadi vuoti quando manca l'assenso del pubblico? Che senso ha giocare a luglio-agosto con temperature che non sono consone al calcio? Quindi secondo me qualsiasi sia la formula alternativa non mi convince, e penso che il campionato sia in tutti i modi falsato, quantomeno depotenziato. Quindi io sarei per una estromissione temporanea, diciamo un accantonamento pure quest'anno, per ripartire con tutti i ritmi il prossimo anno. La ringrazio, la saluto, buongiorno. A lei le faccio rispondere la Presidente del Lecce. Cioè, il senso secondo me è lo stesso che ha ad esempio la NBA, sovracitata e più volte citata, nel dire finiamo piuttosto ad agosto a Las Vegas in isolamento. Il senso è quello, Presidente. Sì, esatto, è proprio così. Io capisco perfettamente lo stato d'animo e il senso della domanda, ma parliamo di voglia, qui non c'è nessuno di ricominciare, così sono d'accordo sul fatto di ricominciare dopo due mesi di stop. È chiaro che diciamo la regolarità del campionato non sarebbe la migliore possibile, ma è una situazione contingente, è una necessità in cui tra l'altro sia ben chiaro che a volte si rappresenta un po' male questo aspetto. L'interesse economico non è un interesse delle società ad arricchirsi, semplicemente un sistema, cercare di far reggere il sistema. Quando inizio anno è stato predisposto il budget, che è obbligatorio da parte di tutti i club, nella voce ricavi ci sono dei ricavi certi, che sono quelli delle televisioni e delle partite, e sulla base di quelli si organizzano i propri costi. Se improvvisamente, per un fatto di forza maggiore, improvvisamente quei ricavi vengono meno, è chiaro che il sistema rischia di saltare. Non è che qui qualcuno si vuole arricchire, cioè, l'unico tentativo è cercare di far crollare la baracca. Non è una cosa cinica, ma è un sistema che non si può fermare, come in questo momento non si possono fermare altri comparti industriali. Esatto. Solo che nel calcio idee, perché il calcio si viene concepito come un gioco, che però poi c'è la parte aziendale che non si può far finta di non vedere. C'è questo grande misunderstanding alla base, no? Non è che si va al campetto a giocare con gli amici, ma è una industria, come abbiamo detto mille volte. Sì, però ma non solo è un'industria, quella. È anche un piacere, perché io ringrazio veramente sinceramente l'autore, l'ascoltatore per le cose che mi ha detto, ma veramente lo ringrazio. Cioè, per me c'è di fondo la passione per il calcio. Cioè, se ci sarà la possibilità, io il quarto, faccio un esempio classico, un quarto di finale con l'Atalanta in Champions League, me lo vorrei vedere, perché mi piace il pallone, perché non so che darei oggi pomeriggio per vedere una partita di metà classifica di Serie B. Per cui, se qualcuno rischia di farsi male, la risposta è assolutamente no. Ricominciamo pure nel 2030, se arriva Burioni e mi dice che dobbiamo ricominciare nel 2030 perché sennò rischiamo la pandemia, incominciamo nel 2030. Ma se invece ci sono, e lo scopriremo nelle prossime settimane, le possibilità per ripartire, non è un interesse economico. A noi, insomma, lo stipendio più o meno ce lo danno uguale, non ci cambia minimamente la vita, è il piacere dello sport, è il ruolo dello sport, è il modo in cui lo sport contribuisce all'economia del paese. Cioè, è questa cosa qui, non è che per forza se c'è dietro un minimo interesse economico quello è la cosa prevalente, e almeno per me non è così. No, certamente, però è da considerare senza vergognarsi nei dettagli della mia situazione economica, ma non mi cambia niente. No, se no, si gioca o se non si gioca, tanto per essere chiari. Sai, però è un elemento da considerare. Rinuncerei volentieri pure alle vacanze se questa cosa significa riaccendere attraverso lo sport una normalità della vita. E trovo molto nobile che il presidente del Lecce, che avrebbe, da quello che si è capito, solo vantaggi a chiudere la stagione, perché risparmia i soldi di tre mesi di stipendio. Corretto. Poi fa un accordo sicuramente di buona volontà con i calciatori, ma sicuramente risparmia rispetto a se finisce la stagione. Conserva sicuramente il posto in Serie A al 100% senza doverselo rischiare. Però lo sport è questa cosa qui. Lo sport è giocare, non è non giocare. Per cui se ci sono le possibilità di farlo, è giusto che ci si provi. Poi ripeto, se arriva Ilaria Capua, sì, Borrelli, chiudiamo tutto e nessuno fa un plissé, questo ragazzi, è evidente, ragazzi. Di morire tutti. Questa è la base. Giochiamo nel 2068, io non ci sarò più. Nel 2068 ricomincia il campionato, perché la salute vale più di qualsiasi altra cosa. Questa è la precondizione, ovviamente. Io un'ultima cosa, poi saluto tutta la compagnia. Presidente, avete un'idea? Mettiamo la stagione finisca a luglio, metà luglio, facciamo. È chiaro che bisognerà riprogrammare il calendario anche delle attività quotidiane, quindi ripresa dell'attività, potrebbero accavallarsi addirittura i campionati, quindi ci vorrà creatività nel così immaginare lo sviluppo della stagione prossima. Sì, no, ancora in questo non abbiamo ancora uno scenario chiaro, però è chiaro che la disponibilità a voler sacrificare un po' tutto, anche ovviamente vacanze e altro, bisogna metterlo in conto. Se posso, volevo proprio ringraziare, perché la precisazione che è stata fatta prima è proprio opportuna. Cioè, a Lecce non solo comprerebbe da un punto di vista della classifica, cioè conservare la Serie A, ma finire a me il campionato in questo momento, un paradosso, mi conviene anche da un punto di vista finanziario, perché infatti io, essendo una società, però io non mi piace parlare del singolo che ha gestito la stagione in equilibrio, anche il venir meno dell'ultima tranche di diritti televisivi compensata dagli stipendi, io finisco la stagione in pareggio, conservo sicuramente la Serie A, però io dico voglio giocare nonostante finanziariamente e da un punto di vista del rischio retrocessione non mi conviene, perché ho sposato completamente la causa del sistema calcio. Quindi questo volevo che fosse chiaro, non c'è nemmeno l'interesse economico oltre a quello di classifica. Chiarissimo, chiarissimo. La ringrazio, grazie davvero, grazie. Presidente, grazie anche ovviamente ad Alessandro Alciato e grazie a voi. Ciao Ale. Alci. Pier, con te ci sentiamo domani perché scavallo la borsa e poi ho convocato Giovanni Bruno e Elisa Di Francesca e Alice Volpi, cioè Elisa Di Francesca che aveva Tokyo nel 2020 a Tokyo 2021 nel mirino come ultima olimpiade, e Alice Volpi invece che va verso la prima partecipazione olimpica. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Words for her now. Final action, Perry, Alice Volpi. Alice Volpi is the world champion. That is the gold medal for Alice Volpi. Hear the siren. Andrò a Tokyo per cercare di vincerle queste Olimpiadi, quindi sono contenta di esserci arrivata nel momento giusto. Hear the sirens. Hear the circus so. Chi mette a segno questa stoccata sarà campionessa olimpica, conquisterà la medaglia d'oro. Vedremo chi la mette a segno. Elisa Di Francesca, medaglia d'oro del fioretto individuale femminile. Mi dispiace non poterle fare, lasciare così. Mi piacerebbe fare quest'ultima Olimpiade, però ecco, un anno è lunga, eh. Hai voglia qua a mangiare? Io già oggi mi sono, dalla disperazione mi sono strappogata. Ciao direttore Bruno. Ciao Carlo. Non potevo oggi salire in pedana su questa pedana senza di te. No, ti do un supporto validissimo, guarda. Elisa Di Francesca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Alice Volpi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao Elisa, ciao Alice. Ciao, ciao Giovanni, ciao Elisa. Allora, la cosa che più mi preoccupa è, Elisa, ti è passata la fame nervosa, la fame chimica? Guarda, io ho appena pranzato, ho lo stomaco bello pieno e adesso mi stavo guardando allo specchio, insomma qualche chilo lo dovrei aver preso, ma è colpa del momento. Io per questa occasione ho iniziato a cucinare, faccio il pane tutti i giorni, i sughetti, i dolci, di tutto. Sì, però adesso Giovanni Bruno ti dice che va bene ancora 3-4 giorni, poi da lunedì si ricomincia, giusto Giovanni? Sì, ma lei non ha mai smesso. lei è così, cioè, l'hai sentito, lo strafogamento di Elisa è uno strafogamento reale, perché a lei piace mangiare, piace cucinare, ma le piace anche mangiare, a piace la buona cucina. Poi è una tosta, perché una che poi, diciamo, adesso permettetemi, c'è un fisico eccezionale, una degli stili più belli sulla scherma quando sei in pedana, non può rinunciare a delle cose straordinarie. Che è un annetto, cos'è un annetto per una giovane fanciulla? Vi faccio sentire cosa ha detto l'altro giorno a questo microfono Giovanni Malagò. Io dico che a bordo rimangono tutti. Federica ha zero problemi, Alex Zanardi zero problemi. Aldo Montano che va per i 42, che ha, diciamo, i suoi acciacchi, le cose, qualche dubbio se lo pone, però io penso che alla fine Elisa Di Francesca, cioè, ci ho parlato diverse volte, ma io sono molto ottimista sinceramente. Beh, dunque Elisa, è un ordine. Presidente. No, mi fa piacere, no? Ci siamo sentiti con Giovanni e niente, io ho presentato i miei dubbi, ma sono dubbi che riguardano l'età, ecco, solo questo. Voglio pensare ad avere un secondo figlio, se riesco anche un terzo, cioè io avrei fatto una famiglia numerosa. e purtroppo molto spesso noi sportive, soprattutto le donne, ahimè, ci troviamo un po' con questo dilemma: dobbiamo per forza programmare i figli, programmare le cose, e quindi da un lato c'è la mia vita personale, la mia famiglia, dall'altro la vita sportiva che comunque mi mancherebbe, che comunque mi piace, la passione c'è, la voglia c'è, il fisico c'è per ora. Invece Alice, per te sarebbe la prima partecipazione olimpica? Sarà, non sarebbe, perché condizionale non c'entra niente in questo caso, sarà la prima partecipazione olimpica. L'altro giorno Elia Viviani, che invece va a difendere la medaglia d'oro di Rio, aveva detto questo: davanti a tutti questi punti di domanda mi sono tolto un peso a sapere che le Olimpiadi saranno il prossimo anno, che ci sarà il tempo di riprogrammare, di avvicinarci a quelle Olimpiadi proprio come vogliamo, ecco. Pensi così anche tu, Alice? Beh sì, diciamo che io ero impaziente di arrivare a queste Olimpiadi, però ovviamente la situazione è diventata molto preoccupante, quindi sono serena adesso, sto cercando comunque di mantenermi in forma perché anch'io mangio tanto, e quindi aspetterò e arriverò pronta anche il prossimo anno. Direttore, l'ultima volta che ci siamo sentiti, che non è un anno e mezzo fa, ma sarà 10 giorni, le Olimpiadi erano ancora in piedi e tu mi dicevi: vediamo se è possibile farle. Evidentemente non era possibile. No, sai, io continuo a dire che secondo me i giochi olimpici sono qualcosa di talmente grande che mi piaceva l'idea, del famoso ricominciare, cioè nel senso il 24 di luglio finisce questa benedetta cosa, si ricomincia, e ricominciare con l'Olimpiade vuol dire che tutto lo sport che scende in uno stadio è qualcosa di straordinariamente bello, retorico ma bellissimo, passami il termine. La fiaccola olimpica a me è una cosa che mi emoziona, quindi è bello sentire Alice che dice: volevo fare un'Olimpiade. Ecco, un mondiale è qualcosa di meraviglioso, l'Olimpiade è tutta un'altra cosa per l'ambiente, lo può dire Elisa, che ne ha vinte 2 di medaglie olimpiche d'oro, più una medaglia d'argento, cioè ne ha fatte 2 l'Olimpiade, ne poteva fare anche di altre. Però la realtà è che i giochi olimpici sono un qualcosa di straordinario, non si poteva fare altrimenti. Guarda la notizia di ieri della cancellazione di Wimbledon, e così pure tutto. È rimasto soltanto ancorato nel suo sciovinismo il Tour de France, ma ho dei seri dubbi di quante squadre, se rimangono ancorate a quello, vorrebbero correre. Però sono gli unici, gli ultimi rimasti, e sono gli ultimi rimasti a correre, perché se ti ricordi la Parigi-Nizza è stata l'ultima corsa, cioè, insieme a una prova di qualificazione olimpica di pugilato. Erano gli unici due eventi che giravano nell'aria e sono stati interrotti. Ma l'altro giorno Elia Viviani ha detto: io non me la sentirei di correre un Tour de France in blindato, senza pubblico, sterilizzato. Insomma, se quando ricominciamo, e ricominceremo con tutte le componenti. Lo stesso vale anche per l'Olimpiade, Elisa. Immaginati un'Olimpiade di Tokyo in questo mese di luglio, in quali condizioni? Cioè, senza il pubblico, senza il mondo, senza contatti, beh, non è l'Olimpiade, eh? No, assolutamente no. Questa decisione andava presa, è giusto fermarci un attimo, ricominciare con le cose di tutti i giorni, le cose che, passami il termine, hanno veramente importanza, come la famiglia, la cura della casa, no? I rapporti, anche questi rapporti che non c'erano più, erano solo virtuali, no? Si parlava tanto sui social, sulle chat, adesso che non possiamo averli ci mancano, no? i contatti con le persone. E quindi andava presa. Io l'Olimpiade la vivo come la gara, no? No, come una gara, come la gara più importante, come diceva Giovanni, che dà tantissime emozioni. E ho sentito anche Alice felicissima, no? di poterle fare, e poi comunque contenta che verranno rimandate, come tutti, come è giusto che sia. Io dico solo una cosa: c'è solo una persona che può convincermi. Ora sono proprio in difficoltà, cioè non so se dire sì o no, c'è solo una persona, ecco. Che può convincerti in che senso? Allora, che può convincermi ad arrivare a Tokyo. Ma abbiamo già deciso, no? Siamo già d'accordo? No. No, c'è solo una persona. Vi do un indizio: è una donna. Può darsi che Alice la indovini. Quindi, Annalisa Contorti. No, è Arianna Enrico. Ma... Vabbè, noi, io e Alice andavamo su una situazione quasi romantica di una sorella maggiore che ti abbraccia, la nostra preparatrice, eccetera, eccetera, con lei che poi ha dato il là anche ad Alice nel cambiamento radicale della sua vita. Però caspita, vabbè. Assolutamente sì, no, era uno scherzo, non volevo fare la supercazzola. Ma io pensavo Ettore, penso un pochino, cioè, Ettore dice papà, mamma ti voglio vedere anch'io, una medaglia quello. Olimpica, no, tu, Carlo, anch'io pensavo, anch'io, sì, ti dico la verità, pensavo anch'io, no, ma soprattutto sono rimasto basito perché dice, c'è ancora da convincere Isai Francesca, abbiamo tutte le rassicurazioni del caso e invece, no, ma comunque, aspetta un attimo. No, convincere nel senso che comunque io sono, a parte gli scherzi, veramente combattuta, perché comunque da un lato c'è la mia passione, c'è la scherma, c'è la voglia di fare le Olimpiadi con questa squadra meravigliosa, con l'Italia, quindi la voglia di riscatto e tutto, dall'altro c'è la mia famiglia, no? C'è chiaro. Questo. Allora, c'è il traffico, un secondo, poi ti faccio sentire Elisa e faccio sentire anche Alicia, ovviamente a tutti, Mauro Berruto cosa ha detto l'altro giorno, così poi facciamo cadere ogni barriera di incertezza. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Non c'è posto al mondo più vicino a quello che io laicamente possa definire il paradiso del villaggio olimpico. Non ho vissuto niente nella mia vita che si possa avvicinare a quei 15 giorni lì, ad Atene e poi a Londra. Io credo che in questo modo sia aumentata la voglia di Alice Volpi e siamo passati i dubbi ad Elisa Di Francesca, io credo. Così l'ha detto, questo l'ha detto Berruto, che ne ha vinto un paio di medaglie con la pallavolo. Alice? Beh, sì, diciamo che io ho iniziato quest'anno con già la tensione preolimpica. La cosa positiva sarà che, diciamo, a settembre inizierò più serena e convinta. Elisa, ti sono passati i dubbi? No, vabbè, è bellissimo quello che ha detto. Comunque quello che si prova nel vincere una medaglia olimpica è speciale. Diciamo solo che io nella mia vita, adesso senza fare troppo la presuntuosa, ho vissuto anche altre emozioni, altre cose importanti, ecco. Beh, direttore, d'altra parte l'Olimpiade è il massimo della contaminazione in senso positivo, cioè tutto il mondo che si ritrova, atleti e gente di tutto il mondo, in un posto molto stretto. Sì, vabbè, da questo punto di vista, quindi era giusto rinviare. E questa è la prima cosa. Che cos'è l'Olimpiade, soprattutto per due atlete come Elisa ed Alice? Secondo me è qualcosa di straordinario. Se io devo invogliare Elisa, è difficile invogliarla ancora di più, perché l'ha provata. Ha provato, cosa vuol dire Londra? Doppia medaglia d'oro. Una medaglia d'oro, Carlo, che ricorderai, l'individuale era un podio tutto italiano, perché lei in finale batté Arianna Errigo e poi ci fu la pazzesca medaglia di bronzo da parte della Vezzali, anche lì rimonta, come andò in rimonta anche Elisa, e poi fu una follia, cambiò il fioretto praticamente su 14 pari, se non ricordo male. Però Elisa era dal 2010 che io incominciavo a vederla olimpica. 2010 vuol dire il Mondiale di Parigi, che lei vinse e incominciammo a capire che il potenziale di Elisa Di Francesca nei confronti delle sicurezze e delle certezze della Vezzali. Per Alice, ti ripeto, io l'ho vista tirare a Baku per i Giochi Europei, pochi ricordano, ma lei vinse una medaglia d'oro perfetta, straordinaria, stilisticamente giusta, con la voglia di gioventù e di emergere. Ecco, e poi è diventata matura, perché ha vinto in Coppa del Mondo, ha avuto la certezza del Mondiale e via di seguito. Quindi sono due elementi talmente importanti, e poi tutte e due, adesso anche se una è scuola senese e l'altra iesina, che poi l'altra del senese è diventata anche iesina, però grazie alla Contorti. Però la realtà sono due punti fermi di classe e di energia della nostra scherma, che io ho sempre detto e l'ha riconosciuto Malagò, è il nostro banco a cinque cerchi. Sicuro, è così storicamente, grazie al cielo. Io mi riallaccerei a quello che ha appena detto Giovanni, a proposito del bancomat, no, cominciamo a fare delle offerte serie, dai. Allora, io ti posso offrire il SUV per la famiglia, no, bene, per la crescita della famiglia, dopo l'Olimpiade però. Ecco. No, se, al massimo ti può prestare anche una bicicletta. A quello sicuro. No, quella tienitela, Giovanni, perché lui va forte in bici. Sì, va forte. L'ho visto ieri sera con Yuri Chechi, è imperdibile, con Yuri Chechi e Antonio Rossi. Poi non ho capito bene chi vince cosa, Giovanni. No, vince sempre Yuri, non ti preoccupare, guarda. Io e Antonio arranchiamo in salita tutte e due. Ebbene, la storia di Yuri Chechi, pazzesca, Elisa, forse può essere quello che tu lo conosci ovviamente molto bene, però l'altro giorno, che pure è stato ospite a Radio 24, ha detto una cosa che vorrei farvi commentare a proposito della sacra bandiera. A me però non piace molto la scelta dei due portabandiere, lo dico con la consapevolezza che tantissimi atleti avrebbero, italiani, tutti i presupposti per farlo, però ecco questa doppia scelta, anche perché comunque poi la porta uno la bandiera, non c'erano due bandiere, quindi c'è comunque una differenziazione, mi pare più di una scelta politicamente corretto e accontentare magari più una federazione in più, e credo che invece il portabandiere si deve scegliere tranquillamente, serenamente, con la consapevolezza che una scelta va fatta. Eli, che ne pensi? Ma no, secondo me non sono d'accordo sinceramente, perché è vero che la bandiera l'ha sempre portata una persona, però la scelta di farla portare a due persone, che sia uomo, magari un uomo e una donna, invece è una scelta bellissima. Due persone di sesso opposto che condividono la stessa bandiera e portano la stessa bandiera tricolore della propria nazione. La trovo una scelta molto, molto bella, non sono d'accordo. Alice? Anche secondo me è una bellissima cosa da fare, dall'opportunità sia un atleta maschio che un atleta femmina di farlo, è bello, è anche condivisione questo. Direttore, tu cosa ne pensi di questo? Non sono d'accordo. Cioè, nel senso, sono d'accordo con Yuri, nel senso che... Ah, bravo, ti conviene, c'hai due donne qua, Vabbè, intanto c'ho Carlo pure, che vuol dire? Io sono d'accordo, io sto con Yuri e col direttore, sai. Io sono sulla scelta unica. Grazie. No, allora, c'è solo un episodio, può essere che magari viene scelto l'equipaggio della vela dei Nacra, che sono uomo e donna, allora è perfetto. Perché comunque viene scelto insieme anche uno sport. No, io preferisco una scelta che viene fatta in funzione della, non tanto della par condicio o delle quote rosa, mi dà senso di contentuccio, quanto per il concetto vero della scelta del campione, punto. Il campione che merita sfilare portando la bandiera italiana. L'ultima volta sono state delle donne, prima del filotto al femminile c'era stato il filotto di Yuri Antonio, da cui nacque poi la straordinaria amicizia della strana coppia. Però la realtà è, a me piace più l'idea che viene eletto il campione simbolo, come può essere l'idea anche della fiaccola, che ha avuto sempre un finale a sorpresa adesso in questi ultimi tempi, e stiamo forse anche esagerando su queste sorprese. Mm-hmm. Sì, perché, secondo me. No, ma sono d'accordo, perché quello non è un uomo o una donna, è un atleta e un campione. Bravo, quindi è quello, atleta un atleta e un campione, è questo il senso. Però vale ogni opinione. Voglio chiedermi ancora questo: vita quotidiana, che fai oltre alle torte, Elisa? pulisco, puliamo casa, ci divertiamo, sto con Ettore, mi godo mio figlio, mio marito, guardiamo film, leggiamo libri, facciamo disegni, pitturiamo, di tutto, ogni attività che possa un po' divertire Ettore e noi. Sì, e a questo proposito, poi vado a casa di Alice invece, dove insomma mi sa che si fa scherma, che ne pensi? No, un'altra il cosa. Terrazzo. Questa roba del portare il figlio un'ora in giro, mica un'ora in giro, oppure non puoi portarlo a fare due passi, però vuoi portarlo al supermercato, io non l'ho capita bene. Come la vedi tu? No, è tutto un po' confuso. Io penso che sia un po' nella coscienza dei genitori, ecco. È vero che i bambini hanno bisogno di correre all'aria aperta, di stare un po' fuori, ma è più un bisogno dei genitori, ecco, bisogna cercare di capire quanto sia il bambino ad averne bisogno e quanto sia il genitore. Io vedo con Ettore che lui sta benissimo anche dentro casa, con tutti i giochi, con mamma e papà, con il cibo che prepara anche lui, con tantissime cose che può fare. Massimo, andiamo nel cortile, lui gioca un po' a palla, si allena con me e questo è quello che facciamo. Le persone che portano i bambini al supermercato possono farlo, non è che pare si possa fare. Io sinceramente preferisco di no, ho fatto fare anche una mascherina per Ettore, preferisco insomma passare questo periodo cercando di stare assoluto più tranquillo. Ma pare una follia. Brava Elisa. Mi pare una follia. Come maschere poi se ne intendono, no? Lui gioca da dottore, mi sembra tutti, mamma c'è il dottore. Alice, a casa tua che succede? Beh, a casa mia sono con 3 uomini, babbo, fratello e fidanzato, quindi c'è tanto lavoro da fare perché Daniele studia, babbo ancora lavora e mio fratello gioca alla PlayStation, quindi faccio tutto io per ora. No Alice, no, no, tu sei condannato. Vabbè, ma almeno frega la PlayStation. Beh, però il fidanzato si allena anche lui, o no? Sì, facciamo una seduta al giorno, ogni videochiamata con Annalisa. E fortunatamente ho il giardino, quindi possiamo allenarci anche un po' all'aria. Grazie, fidanzato che è Garozzo, medaglia d'oro olimpica. Non ho fatto queste domande a caso o per ficcanasare. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie davvero, direttore. Grazie, Elisa, grazie. Di Francesca. Ciao. Grazie a voi, grazie a loro. Perché e lì no, non ci... vai tranquilla, cioè. Ti aspettiamo. Siamo già tutti d'accordo. Siamo già lì. Che miseria. Siamo Alice, già lì. Alice non sale in pedana per la squadra, No, ecco, io lì volevo arrivare. Ci siamo ritrovati, che abbiamo vinto. Ecco, per favore, abbasso le russe. Siamo d'accordo tutti, signori. Aggiorno la seduta. Grazie a tutti. Grazie Giovanni Bruno, Elisa Di Francesca, Alice Volpi. Grazie ovviamente a Laura Vanossi, a Claudia Schiattone in redazione, a Roberta Frisani e Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.